ci siamo occupate di preparare questo piccolo contributo appunto sul lavoro femminile ai tempi del coronavirus. Questo perché da anni ci occupiamo di diritto del lavoro e ci siamo sempre interessate in maniera particolare a quella che è la condizione della donna, che da sempre vive una sottorappresentazione nel mondo del lavoro. Questa sottorappresentazione in questa fase di emergenza è ancora più evidente. Questo perché la figura femminile oggi incontra delle notevoli difficoltà. Lo smart working, cioè che si traduce nel nostro ordinamento in lavoro agile, deve necessariamente combinarsi con quello che è il supporto che la donna dà ai propri figli nella didattica a distanza, se di didattica sempre si può parlare. Quindi la figura femminile oggi vive davvero un momento di estrema difficoltà e come abbiamo titolato noi il nostro articolo, la donna oggi vive una sorta di rincorsa fra quello che è lo smart working e quello che è appunto la didattica a distanza, lo smart schooling. A proposito di didattica a distanza, insomma, nei giorni scorsi si è parlato anche la presenza fisica nelle scuole potrà essere ritardata ulteriormente. Esatto. Questo non comporta il rischio ulteriore per la donna nel lavoro di cura? Assolutamente, infatti le dichiarazioni della ministra Azzolina sono state quelle che hanno dato l'input a questo piccolo contributo che abbiamo dato io e le mie colleghe, e la ragione è proprio appunto quella che anticipavi un po' tu, nel senso che se la donna oggi può tamponare una situazione, diciamo, di emergenza in un tempo comunque contenuto, è chiaro che più questa situazione di emergenza si protrae, maggiori sono le possibilità che la donna fuoriesca dal mercato del lavoro. Questo è il vero dato preoccupante. E allora, se la donna è chiamata a resistere in questa condizione di rincorsa fra la cura della famiglia e il proprio lavoro, se questo può farlo in un tempo limitato, un conto, ma se la situazione emergenziale si protrae, è chiaro che le donne in particolare saranno costrette a fare delle scelte che purtroppo con buone probabilità comporteranno la loro fuoriuscita dal mercato del lavoro, ed è quello che più ci preoccupa. Infatti il nostro articolo si concludeva, ecco, con l'auspicio da parte del governo a prendere dei provvedimenti di supporto soprattutto alla figura femminile, anche alla luce del fatto che sono arrivati negli anni, più in particolare nel corso del 2019, dei chiari input dalla comunità europea in questo senso. Da ultimo c'è la direttiva che, ecco, richiamiamo nel nostro articolo, nel numero 1158 del 2019, che appunto sostiene, punta ad incoraggiare, è finalizzata ad incoraggiare gli stati membri a cercare una effettiva parità fra i genitori nella cura della famiglia. A proposito dei provvedimenti, quali sono quelli messi in campo fino adesso dal governo e quali invece sarebbero necessari? Quelli messi in campo fino a qui dal governo fino ad oggi sono innanzitutto il bonus babysitting, che però ha tutta una serie di complicazioni, proprio nel senso che per poterne fruire ci sono una serie di presupposti chiari, e noi pensiamo, per l'esperienza che abbiamo, che non tutti le famiglie, non tutte le donne siano effettivamente nella condizione di poter richiedere questo bonus babysitting, che tra l'altro è concesso nel limite massimo di 600 euro, e quindi è sicuramente, diciamo, uno sforzo da parte del governo molto contenuto rispetto invece a quello che sarebbe necessario per consentire a una donna di poter svolgere adeguatamente la propria prestazione di lavoro anche da casa. Il famoso poi congedo Covid-19 di cui si è tanto parlato, e anche lì ci sono tutta una serie di limitazioni, per cui sono misure che poi andremo a valutare sul campo rispetto a quella, vedremo insomma quante famiglie riusciranno effettivamente ad usufruirne, e queste sono misure sostanzialmente fino ad oggi. Dopodiché quelle che noi invece riteniamo necessarie affinché appunto la donna, soprattutto la donna, ecco, la figura femminile possa continuare a lavorare serenamente, ecco, vedrebbero ad esempio una soluzione di riapertura delle scuole con sicuramente delle misure di sicurezza. Quindi si è parlato ad esempio di dare la possibilità di fare didattica all'aperto, ad esempio avere banchi distanziati tra di loro che non consentano un contagio così facile come se i bambini invece fossero uno vicino all'altro, insomma comunque dunque delle misure che possano prevedere lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della donna lavoratrice madre in un contesto di tranquillità. Ed è chiaro che prendersi cura della famiglia e contemporaneamente cercare di lavorare mantenendo certi standard produttivi è chiaro che è inconciliabile, sono due cose inconciliabili tra di loro.